triste ospizio, non ci rispetta neanche un po', ed io non riesco a liberarmi dalla pazzia di continuare ad essere lucida. Corpi stesi al sole, differenti al colore delle giornate passate a inseguire le fate, ai calci tirati al vento, nei giorni dello sgomento, nei giorni della paura a cercare una cura, nei giorni dell'ardore regalarci l'amore, a reinventarci gioiosi, rivestiti da sposi. Tu croce rossine di un soldato, tu croce rossine di un soldato. Ricordi quando mi dicevi amore? Stasera andiamo a letto presto, sarà bello avere a nostra disposizione un po' più tempo per sognare un mondo migliore. E il tempo che passa brucia come fuoco i nostri cuori di cera, macchine per sentimenti, per sangue e dolore. Fiacca i nostri ricordi, le speranze, i progetti, ci ha rubato anche il fiato per tornare a scappare. Proprio come la guerra non lascia prigionieri, non lascia che la voglia di ripigliarsi la pace. È proprio come una guerra, tutti ci muoiono intorno, tutti ci muoiono intorno. Vino c'è un veleno, cattivo quasi come il tuo male. Abbracciami che questo letto stupido